schifo e che una via d'uscita non c'è, che di questa vita non puoi fare il tifo quando smetterai di chiederti perché. Non credere che non ci sia un'altra strada in fondo a questa bugia. Non credere che non verrà una canzone a dirti la verità. Fidati di me, ho sbagliato anch'io quando per paura non ho fatto a modo mio. Fidati di me, non buttarti via anche se il regalo di un miracolo non c'è. Almeno fidati di me. Hey, quando ti diranno che se tocchi il fondo non puoi risalire più su, chi sei tu, non credere.